Focus Economia. Con Simone Spezia. Buonasera cari ascoltatrici e cari ascoltatori da Simone Spezia, buonasera ai reduci di agosto, è l'11, quindi la settimana che naturalmente conduce a Ferragosto e siamo qua, fatevi sentire, 349-238-6666 per i vostri sms. Di cosa parleremo oggi? Parleremo di quello che si è più o meno consumato nel fine settimana, che è stato interpretato come una sorta di scontro tra il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, e il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che oggi ha rilasciato un'intervista al Financial Times nella quale dice insomma non abbiamo bisogno di nessun commissariamento, non abbiamo bisogno, sappiamo benissimo che dobbiamo fare le riforme, non me le farò dettare da nessuno, le riforme le farò io, secondo, insomma, le farà il mio governo secondo quello che ritiene opportuno per il nostro paese. Sullo sfondo, ma nemmeno troppo sullo sfondo, c'è questa crescita che continua ad essere asfittica, i dati sul prodotto interno lordo della scorsa settimana, un calo dello 0,2%, e oggi l'agenzia di rating Moody's, che rivede ampiamente al ribasso le sue previsioni di crescita per l'anno per l'Italia, e soprattutto avverte, attenzione, siete su un crinale pericoloso, potreste sforare il famoso rapporto tra deficit e PIL, proprio perché è un rapporto quello tra deficit e PIL, e se il prodotto interno lordo cala, evidentemente appunto anche questo rapporto si amplia. Parla Moody's di un 2,7%, che però si potrebbe ampliare. Tutto questo, come sappiamo, sta avendo anche un impatto sui mercati. In realtà il tema non riguarda solamente l'Italia, ma riguarda più in generale i mercati europei, e però riguarda più marcatamente l'Italia, dove ci sono stati, come dire, dei segnali di disimpegno, insomma, sul mercato italiano. Vorremmo capire, che cercheremo di capire in questa puntata, quanto questi segnali di disimpegno sono effettivamente profondi. Tra l'altro la giornata oggi in realtà è favorevole, perché il FTSE MIB guadagna l'1,17%, il FTSE All Share l'1,22%, ma meglio fanno le altre piazze finanziarie europee, che recuperano di più. Vedi Francoforte, più 2%, vedi Parigi, più 1,3%, e vedi Londra, anzi Londra un pochino meno, più 1,04%, con l'America che guadagna lo 0,3% sul Dow Jones e mezzo punto percentuale sullo Standard & Poor's 500. Brevemente, a Milano a dominare i listini oggi è Banco Popolare, più 8,24%, poi ci torneremo, così come Jux, più 4,06%, Prismian, più 3,5%, Buzzi Unicem, più 3,38%, la Popolare di Milano più 3,36, Atlantia più 3,34, sono pochi titoli in negativo, Monte dei Paschi meno 1,72%, Ubibanca meno 0,79%, Mediobanca meno 0,75%, Telecom Italia meno 0,24%, e infine Moncler che cede lo 0,08%. Questo per quanto riguarda l'Italia, l'andamento della nostra economia e i mercati, ma ci occuperemo anche di evasione fiscale. Ne parliamo perché oggi è uscita sul Sole 24 Ore una sorta di mappa del rischio dell'evasione, che ha una connotazione geografica, ma come sappiamo anche una connotazione di settore, di dimensione di impresa e così via, come è perfettamente naturale. E il tema fiscale continua a restare centrale, anche se in questi giorni, in queste settimane, come è anche naturale, visti i dati, viste le notizie che si accavallano un po' sullo sfondo, e però a settembre bisogna stringere sulla delega fiscale. Di questo parleremo con i colleghi del Sole 24 Ore. C'è anche un'intervista oggi alla neo direttrice, al neo capo dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, sul Corriere della Sera, che insiste sul fatto che insomma bisogna rivolgersi soprattutto alle cosiddette grandi frodi fiscali piuttosto che alla piccola evasione. Parla della necessità di un fisco più facile. Su questo siamo tutti d'accordo, di qui all'attuazione pratica di tutto ciò, come sempre. Dubbi come sempre ce ne sono. Lo ripeto, 349-238-6666 per i vostri sms, le notizie in breve di oggi. C'è qualcuno che scrive, e a dir la verità non è l'unico, scrive appunto al nostro numero di SMS: il commissariamento è l'unica soluzione subito prima di sprofondare negli abissi. Non eccediamo. Comunque anche di questo parleremo, perché insomma Mario Draghi questo commissariamento un po' l'ha evocato. Abbiamo, e partiamo come sempre dalle materie prime, l'oro che in leggero calo a $1,309 l'oncia, il petrolio sale dello 0,5%, $98,1 al barile, le tensioni nelle aree di produzione petrolifera non stanno ancora evidentemente producendo gli effetti forti che forse ci si aspettava. I dati arrivati oggi da Moody's e anche dall'OCSE. Allora, per quanto riguarda l'OCSE, si parla di una crescita nell'eurozona che si conferma con uno slancio stabile. E però segnala l'OCSE, diffondendo il suo superindice di giugno, che in Germania continuano i segni di una perdita di slancio, mentre per l'Italia si delinea una fase positiva. Il cosiddetto superindice OCSE si segnala per l'Italia con un aumento dello 0,1%, e per quanto riguarda la Germania si vede un calo dello 0,23%. Moody's, cosa dice l'agenzia di rating? Allora, innanzitutto taglia la previsione sul PIL dell'Italia nel 2014, un meno 0,1% dal precedente più 0,5%. Tutto questo in un rapporto dedicato espressamente al nostro paese, che arriva, ve l'abbiamo già detto, dopo il dato sul prodotto interno lordo del secondo trimestre, che faccia segnare un meno 0,2%. Secondo Moody's, la lentezza delle riforme e le lacune nella performance di bilancio aumenteranno le tensioni con i partner europei, soprattutto con la Germania. L'agenzia vede il nostro rapporto deficit-PIL 2014-2015 al 2,7%, con rischi significativi di ulteriori revisioni al rialzo. Il rapporto debito-PIL, l'altro grande peso che ci portiamo appresso, ossia il debito pubblico. Moody's lo stima al 136,4% per quest'anno e al 135,8% nel 2015. Come vedete, un calo molto tenue, un calo dello 0,6%. Parla Moody's tra l'altro di un'agenda di riforme ambiziosa la cui attuazione è lenta. Dice che la recessione peserà sulla politica fiscale e sul clima politico. E poi i famosi €80. Dice l'agenzia di rating che è una misura importante, ma è sostanzialmente troppo presto per vederne gli effetti. Essendo entrata in vigore in sostanza solamente a giugno, potrebbe avere un impatto, sostiene Moody's, nella seconda parte dell'anno. Breve tregua sui mercati, speriamo che duri naturalmente, anche dal lato dei nostri titoli. Spread in calo a 172 punti, rendimento al 2,79%. Altri dati che sono arrivati oggi, quelli sulla casa, In 10 anni, dice l'Istat, sono cresciuti del 13% gli edifici e cala lo stock inutilizzato, per così dire, cioè le parti di abitazione, le abitazioni che non vengono utilizzate. In Italia ci sono 14 milioni e mezzo di edifici. Allora, l'1,7% delle abitazioni italiane non è servito da acqua potabile. Nelle isole la quota sale al 6,2%. E ancora altri dati, sono quelli che scrive, che diffonde CRIF. Sono aumentati quasi del 40% i pagamenti oltre i 30 giorni alle imprese a giugno. I dati sono dello studio Pagamenti 2014, realizzato da Cribis DNB, società del gruppo CRIF, e attivano i servizi per le imprese. Solo il 37,4% delle imprese è stato puntuale nell'onorare le fatture con le altre imprese. Il calo è dell'8,4% rispetto al 2013, quando la media era del 45,8%. Pagamenti oltre i 30 giorni, e quindi appunto imprese che ritardano a pagare le altre imprese, per esempio i fornitori o i subfornitori, sono cresciute i pagamenti oltre i 30 giorni sono cresciuti del 203,6% rispetto al 2010. Altri dati sono quelli del Sole 24 Ore sull'evasione, ma ci arriveremo più avanti con Salvatore Padula, che ci accompagna sempre in questi casi, però ve li accenniamo intanto. Calabria, Sicilia, Valle d'Aosta, Campania e Sardegna sono le regioni che in media evidenziano il maggiore scostamento tra consumi delle famiglie e redditi dichiarati, quindi come dire, la maggior evasione ipotetica, il maggior rischio di evasione. La maggiore differenza in Calabria, quasi il 46%, dove a fronte di dichiarazioni medie di 8.691 euro lordi annui si rilevano spese per 12.663 euro. Segue la Sicilia, dove questa differenza del 40%, la Valle d'Aosta il 31%, la Campania 30% e la Sardegna 25%. La differenza meno marcata è in Umbria, 12,5%, Lombardia 13%, Friuli 14%, Basilicata 14% e Lazio 15%. La Lombardia è però la regione che mostra il più forte aumento del differenziale, più 4,2%. E veniamo al primo tema di oggi, che è quello naturalmente della crescita economica, dell'andamento dell'economia, della situazione italiana, dello scontro, o almeno così ci è parso essere, o quasi scontro, tra Draghi e Renzi. Ci scrive: dai, non va tanto male, i treni sono pieni e gli alberghi sono al top, mancano i ristoranti da questa disamina. Renzo da Cortina, poi arriveremo al tema dell'evasione fiscale. Dice che ci si dimentica che c'è sempre una parte del paese che lavora e vive in nero. E ed è quello di cui parlavamo, cioè parla della forbice tra reddito dichiarato e consumi, anche di beni di lusso, molto più ampio che al nord. Ci verremo. Intanto saluto Adriana Cerretelli. Adriana, buonasera. Buonasera. Che è editorialista e commentatrice del Sole 24 Ore da Bruxelles sulle vicende europee. Saluto anche Alberto Gallo, che è economista di Royal Bank of Scotland, è in collegamento con noi da Londra. Buonasera Gallo. Buonasera, salve. Con lei andremo un po' più a cercare di capire che cosa ci stanno dicendo, cosa ci hanno detto in queste settimane i mercati e che cosa soprattutto dobbiamo attenderci per settembre. Allora, Adriana, questo scambio di battute, per così dire, tra il Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, e il Presidente del Consiglio Renzi, lo interpreti come un vero e proprio scontro o, come dire, una normale dialettica tra istituzioni? Ma da una parte direi è un po' entrambe le cose, nel senso che è una normale dialettica che nel caso della personalità di Matteo Renzi diventa uno scontro, perché a Renzi piace fare fuochi d'artificio. E in più diciamo, la risposta che ha dato a Draghi dalle tribune del Financial Times, secondo me vogliono essere non solo, da una parte era prevedibile, vista la personalità di Renzi, che rispondesse, diciamo, per le rime a chi insomma, non dico che lo richiamasse all'ordine, ma comunque gli ricordasse che da troppo tempo l'Italia deve fare le riforme e ancora non le ha fatte ed è in ritardo e tra i più ritardatari dell'Eurozona insieme alla Francia. Dall'altro lato, diciamo, il dialogo anche magari irritato, teso, fa un po' parte del gioco delle parti, no? Nel senso che la BCE ovviamente deve richiamare i paesi all'ordine e quelli che sono richiamati ovviamente non gradiscono. Facciamo una cosa, abbiamo pronto Draghi? Facciamo risentire le parole di Mario Draghi che, insomma, che hanno scatenato il tutto. One of the components of the low GDP figure for Italy. Una delle componenti della bassa crescita in Italia è nel basso livello di investimenti privati, laddove invece i consumi hanno segnato un rimbalzo. Se si guardano i dati degli investimenti privati, i numeri sono molto bassi. Non si tratta di un caso isolato nell'area euro. Il livello di investimenti privati, considerando la zona euro nel suo complesso, è modesto ed è certamente molto più basso che in altre parti del mondo, come per esempio negli Stati Uniti. Se ci chiediamo il perché di questa situazione, non è per il costo dei capitali, perché i tassi di interesse sono bassi e in alcune parti della zona euro sono negative anche da tempo. Ha a che fare con le riforme, con la generale incertezza che circonda le riforme. L'incertezza che la mancanza di riforme strutturali produce è un fattore importante che scoraggia gli investimenti. Ci sono casi in cui gli investitori vorrebbero costruire stabilimenti e creare posti di lavoro, ma aspettano mesi per ottenere le autorizzazioni. Ci sono casi in cui i giovani cercano di avviare un'impresa, ma ci vogliono 8-9 mesi prima che riescano a farlo. Questo non ha nulla a che fare con la politica monetaria. Si tratta di mancanza di riforme strutturali nel mercato del lavoro, nella produzione, nella competitività, nella giustizia e così via. Queste sono riforme che hanno dimostrato di dare benefici in poco tempo. Non bisogna aspettare tanto per vedere gli effetti. Una delle obiezioni classiche è che per fare le riforme strutturali ci vuole tanto tempo e anche per vedere i risultati. Alcuni paesi hanno però dimostrato che questo non è vero. E infatti hanno visto la disoccupazione scendere e il PIL crescere. Quindi alcune di queste riforme portano benefici immediati, mentre altre hanno bisogno di più tempo. E non vi lamentate, siamo una radio a tutto tondo, diamo anche le notizie di calcio, insomma, sono 5 o 6 sms, ma che breaking news del cavolo, ma su. Una parte del mondo del calcio, e non solo, una parte degli italiani attendeva questa notizia, l'abbiamo data, punto. Tra le altre cose che ha detto Draghi, dice: per i paesi dell'Eurozona è arrivato il momento di cedere sovranità all'Europa per quanto riguarda le riforme strutturali. E c'è chi è arrivato, Adriana, a ritenere queste parole come una sorta di proposta di commissariamento dell'Italia. Forse non è da leggere così, no? No, direi di no, in questo caso proprio no, nel senso che il problema della cessione della sovranità sulle riforme è un problema che si trascina oramai da direi più di un anno. A proporlo era stata la Germania nel pieno della crisi dell'euro, con l'idea di creare un polo economico integrato quanto quello monetario. Noi abbiamo una politica monetaria unica, ma non abbiamo nell'eurozona una politica economica unica. E quindi questo ha portato a delle divergenze e a delle profonde diversità, non solo nei livelli di sviluppo, ma anche proprio nelle strutture che creano sviluppo. In Italia molti dicono che il vero problema non è una crisi debitoria, ma è una crisi strutturale, nel senso che di questo passo senza le riforme il nostro debito potrebbe diventare insostenibile, ma come conseguenza di un problema strutturale, non come diciamo come fattore di una crisi finanziaria da insostenibilità del debito. Quindi il problema esiste, finora non è stato risolto. La Germania aveva avanzato la proposta dei famosi contratti bilaterali, cioè ogni Stato avrebbe dovuto negoziare con la Commissione le riforme da fare e queste sarebbero state diciamo visionate e sorvegliate attentamente. E nell'ambito di questa proposta, che non ha finora visto la luce in concreto, si parlava anche di eventuali incentivi alle riforme, punto sul quale la Germania è sempre stata piuttosto silenziosa, quando non scettica. Però il dibattito si è arenato perché soprattutto la Francia ha ritenuto di non volere diciamo neanche incominciare un dibattito di questo genere, che significa naturalmente, dopo aver ceduto sovranità sulla politica monetaria, accettare l'ingresso dell'Europa dentro casa a tutti gli effetti, perché ritiene che oggi la situazione in Europa sia troppo squilibrata e sotto diversi punti di vista, compreso per esempio il bilancio europeo, che non agisce come ammortizzatore dei problemi di asimmetrie che nascono appunto dalle divergenze che oggi esistono, insomma. Quindi non è certamente da vedere come un appello al commissariamento dell'Italia, quello no. È un problema che andrà affrontato, che verrà discusso nei prossimi mesi di sicuro, perché se si vuole risolvere la crisi dell'euro non c'è ombra di dubbio che bisogna in qualche modo integrare di più le politiche economiche e quindi anche quelle che riguardano le riforme e le strutture economiche dei paesi. Allora, Alberto Gallo, economista di Royal Bank of Scotland, in collegamento con noi da Londra. Quello che volevo innanzitutto capire da lei, posto che qualche parziale punizione dei mercati, a meno che non sia solamente una correzione, ma questo me lo chiarirà lei, mi darà qualche indicazione, l'abbiamo già ricevuta, vorrei capire quanto effettivamente i mercati ci potrebbero punire per una certa lentezza nel fare le riforme e soprattutto per una condizione economica che non sembra risollevarsi, visto anche quello che dice Moody's oggi, insomma, no? Anche dal lato dei conti pubblici non sembra che ci siano sensibili miglioramenti, anzi la tendenza sembra essere al peggioramento. Prego, Gallo. Sì, c'è stato inizialmente, negli ultimi mesi c'è stata una luna di miele tra i mercati, gli investitori e il governo Renzi, quindi il mercato ha premiato l'Italia con una ottima performance nei mercati azionari, ma anche sullo spread che è sceso ai minimi. Questo però dopo il secondo trimestre di crescita negativa, almeno 0,2% che abbiamo visto la settimana scorsa, questo si è completamente invertito. Certo, c'è stata una correzione anche in altri mercati, ma l'Italia è quella che ha sofferto di più in Europa e ha quasi azzerato tutta la performance positiva che aveva fatto. Se guardiamo per esempio l'indice azionario, era il migliore in Europa, adesso è al pari degli altri o peggio. E gli investitori specialmente investitori americani sono usciti dal mercato italiano. Perché? Perché il progresso sulle riforme è il fattore principale per garantire crescita di lungo termine, e per gli ultimi 20 anni i governi italiani hanno soltanto implementato piccole misure fiscali per tirare avanti di anno in anno. Privatizzazioni, aumenti delle tasse, redistribuzione degli oneri fiscali, queste sono tutte cose di breve termine, ma non cambiano il modo in cui funziona l'economia. E questo è quello che gli investitori vogliono. Circa oltre 2/3. Cioè, investitori... lei mi sta dicendo che a differenza di quello che viene ritenuto, no, nel quello che c'è nella vulgata, gli investitori stanno guardando alla strategia di lungo termine e in questo momento non la vedono. Non la vedono, e quello che l'Italia ha fatto è molto diverso dalla Spagna, che ha fatto riforme del lavoro, delle banche, ha consolidato le banche da 45 a 13, le banche popolari, ha creato leggi per il finanziamento delle imprese al di fuori del canale bancario. Vediamo un po' di progresso nel decreto competitività che adesso è diventato legge, abbiamo avuto la riforma del Senato, però ci è voluto molto tempo per arrivare a questi punti e rimangono dei punti aperti molto importanti, la riforma del lavoro, il mercato del lavoro a due velocità con i vitalizi, i contratti vecchi per i politici e i giovani con i contratti flessibili, il sistema legale dove non c'è certezza del diritto e i processi durano 10 anni, la tempistica più lunga dell'Europa, le banche, ci sono più sportelli bancari in Italia che in tutti i paesi sviluppati, più sportelli bancari che farmacie o scuole o asili. Queste sono tutte cose che frenano la competitività e che non sono state ancora toccate. E gli investitori vogliono vedere questi progressi sulle riforme chiave. Finora ci sono tante piccole iniziative, tante riformine che però non hanno ancora toccato il nocciolo del problema. Ci sono probabilmente anche, ce lo scrive un ascoltatore parlando di Draghi, dice Draghi fa riferimento ai burocrati, ci sono tante e tante resistenze, bisognerà vedere se il governo Renzi avrà il coraggio di affrontare queste resistenze, di rompere determinati muri e anche di rompere qualche tabù. Io intanto vi ringrazio, grazie a Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore sui temi europei, e grazie anche ad Alberto Gallo, economista di Royal Bank of Scotland in collegamento da Londra. Ci fermiamo per un attimo, ci ritroviamo tra pochissimo e parliamo di evasione fiscale. Focus Economia. Luca, scusate, ma non è che Renzi confida nell'introduzione dell'illecito nel PIL? Insomma, come sapete, l'abbiamo raccontato nelle settimane scorse, era stata diffusa la notizia che per adeguarsi anche ai calcoli Eurostat anche il nostro paese, anche l'Istat, introdurrà nel calcolo del prodotto interno lordo delle stime per quanto riguarda alcune attività illecite, ad esempio la prostituzione. Nei mesi scorsi l'economista Mario De Aglio aveva stimato 90 miliardi di euro circa, la cifra che può valere un 6% complessivo del PIL, che quindi si traduce in una frazioncina di crescita nella sostanza. Detto ciò, insomma, confidare in quello mi sembra un po' poco. Veniamo alla borsa. Paolo Paronetto, Radio Core del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, abbiamo parlato poco fa con Gallo di Royal Bank of Scotland delle prospettive e di quello che può succedere. Intanto la giornata di oggi ci consegna una chiusura ampiamente positiva, un più 1,39% sul FTSE MIB, un più 1,43% sul FTSE All Share, un rimbalzo rispetto ai cali dei giorni scorsi, Paolo, o insomma c'è qualche segnale positivo? Ma no, soprattutto è proprio un rimbalzo dopo la settimana scorsa che è stata negativa, e non ci sono indicazioni positive, non ce ne sono state neanche di negative. Questa è stata forse la novità che ha apprezzato il mercato. Oggi non erano in programma indicatori macroeconomici di rilievo e quindi su quel fronte non sono potute arrivare sorprese negative. Inoltre diciamo che si è diffusa una certa speranza di un possibile allentamento di almeno alcune delle tensioni geopolitiche che di recente hanno zavorrato i listini. Milano, come segnalavi tu, ha chiuso in deciso rialzo, ha fatto anche meglio di altre piazze europee come ad esempio Parigi, e quindi ha di fatto ignorato i giudizi che sono stati espressi in giornata da Moody's, che tra le altre cose ha tagliato le stime sul PIL italiano e stimato che l'Italia non raggiungeva il target sul deficit pubblico. Gli indici di borsa non hanno reagito negativamente, anzi sul finale hanno accelerato, chiudendo appunto in buon rialzo. Bene Milano, bene Parigi, anche se un po' meno di Milano, meglio Francoforte più 1,90%, mentre l'America col Dow Jones guadagna lo 0,35% e sullo Standard & Poor's lo 0,6%, il Nasdaq guadagna quasi un punto percentuale e l'euro intanto quota 1,3384 contro dollaro. Paolo, inizierei dai titoli migliori di oggi su tutti: Banco Popolare più 8,24%. Sì, il Banco Popolare è stato premiato dai conti semestrali annunciati venerdì a mercato chiuso. In particolare il mercato ha apprezzato il ritorno all'utile nel secondo trimestre dell'anno dopo un primo trimestre chiuso in perdita. In generale negli scorsi trimestri c'erano state molte svalutazioni, in particolare di avviamenti e accantonamenti su crediti che avevano zavorrato i titoli. Non ci sono state queste voci straordinarie e negative nell'ultimo trimestre e questo quindi è stato salutato positivamente dagli investitori. Inoltre, nel corso della conference call, l'amministratore delegato Pierfrancesco Saviotti ha assicurato che l'esame della BCE sarà positivo per il banco e quindi anche queste parole di fiducia hanno sostenuto il titolo. C'è Iux che sarà del 4,29%. Sì, per quanto riguarda Iux non ci sono indicazioni specifiche, il titolo era stato negativo in molte sedute della scorsa settimana e comunque di recente. Oggi si tratta quindi diciamo di un recupero che ha seguito l'andamento generale dell'indice. Bene Prismia che guadagna il 3,82%, Atlantia più 3,5%. Caso Atlantia è stata tra i titoli migliori fin dall'avvio della seduta, ha beneficiato da un lato dalla formalizzazione dell'accordo tra Alitalia e Etihad, Atlantia è tra gli azionisti di Alitalia. Inoltre sui giornali oggi ci sono interviste dell'amministratore delegato Giovanni Castellucci che proprio esprime parole positive proprio sulla partnership tra Alitalia ed Etihad, e inoltre annuncia il possibile ingresso di nuovi soci nella controllata aeroporti di Roma. Anche qui si guarda gli Emirati, proprio ad Abu Dhabi, un fondo di Abu Dhabi potrebbe entrare nel capitale di aeroporti di Roma, quindi questa serie di indicazioni positive ha sostenuto oggi il titolo Atlantia. Infine, sempre per quanto riguarda i titoli positivi, abbiamo GTEC che guadagna il 2,61%, lo ricordiamo sempre, GTEC è quella che è diventata famosa come l'ottomatica, almeno insomma, dalle nostre parti, e che fa un bel acquisto all'estero che riceve il via libera dell'antitrust americano, no? Esattamente, di recente ha annunciato questa maxi operazione da 6,4 miliardi di dollari negli Stati Uniti. C'erano stati alcuni dubbi sulle possibili cause da parte di azionisti di minoranze che avevano penalizzato il titolo nelle precedenti sedute. Invece stamattina è arrivato il via libera dell'antitrust statunitense, che era una delle condizioni dell'operazione, quindi il mercato ha premiato il titolo proprio visto il passo avanti nell'acquisizione di IGT, che è questo colosso americano dei giochi. Da segnalare tra l'altro, e questo lo diamo come dettaglio dell'operazione, ma che insomma, quando riguarda Fiat ne discutiamo tantissimo, evidentemente quando riguarda altre aziende no, però succede di fatto che GTEC e IGT confluiranno in un'unica società con sede a Londra, sede fiscale a Londra e quotazione a Wall Street. Se non sbaglio uscirà dal mercato italiano in sostanza, no? Sì, sostanzialmente sì. Bene anche la Roma, più 11%. Sì, qui la notizia non è sportiva ma finanziaria, ha chiuso a più 13,67%, ci sono possibili movimenti in vista nell'azionariato, si parla di un'uscita di Unicredit dalla controllante della S Roma, che dovrebbe diventare quindi interamente di proprietà della società del presidente James Pallotta, e inoltre proprio in questa società, che sarà la controllante totalitaria della S Roma, si parla di un rafforzamento del gruppo statunitense Starwood, quindi è un riassetto che è atteso da molto tempo dal mercato, che ha premiato proprio su queste indiscrezioni il titolo della S Roma. Infine Monte dei Paschi. Monte dei Paschi è stato in controtendenza rispetto a un settore bancario tutto sommato positivo, oggi ha chiuso in calo dell'1,81%, oggi è in corso la riunione della deputazione generale della fondazione che deve eleggere il nuovo presidente, nel frattempo il titolo ha quindi confermato un trend negativo che dura ormai da parecchi giorni, anzi possiamo dire pure dall'inizio del mese, e che si è accentuato giovedì scorso dopo la pubblicazione della semestrale. Ricordiamo inoltre che oggi è l'ultimo giorno in cui vige il divieto di vendite allo scoperto imposto dalla Consob venerdì scorso, quindi vedremo cosa accadrà da domani. Grazie intanto a Paolo Paronetto di Radio Corriere del Sole 24 Ore, grazie sempre alla vostra, come sempre alla vostra redazione, buonasera. Ci scrive qualcuno, dato che sapete che siamo per parlare di evasione fiscale, dite: per combatterla occorre eliminare la legge sulla privacy fatta da delinquenti per delinquenti. Mi sembra francamente, Emilio è l'ascoltatore che ci scrive, mi sembra sinceramente un po' eccessivo. Una piccola nota a chi ci dice: sento grande entusiasmo per le società di rating, memoria corta. Che le devo dire, ha ragione, insomma è chiaro che non è oro colato, però è l'ennesima previsione che arriva da un'istituzione finanziaria internazionale, in altri casi sono istituzioni intergovernative, che ci dice che l'andamento della nostra economia non va bene. Poi possiamo discutere all'infinito su come vengano fatte queste previsioni, perché comunque Moody's ha rivisto a ribasso la previsione da un più 0,5% a un meno 0,1%, insomma forse qualche algoritmo utilizzato per le previsioni sarà da rivedere. Traffico e poi l'evasione fiscale. Focus Economia. Ed eccoci dunque a parlare di evasione fiscale. Oggi il Sole 24 Ore fa una sorta di mappa, una mappa del rischio, una mappa delle regioni nelle quali il divario tra la spesa per consumi delle famiglie, media naturalmente, perché qua gioca sempre il pollo di Trilussa, la differenza tra quanto si spende, no, e quanto si dichiara è più alta. In testa la Calabria, a fronte di dichiarazioni medie di 8.600 euro lordi annui, spese per 12.000 euro. Segue la Sicilia, il divario del 40%, la Valle d'Aosta, il divario è del 31%. Si allarga il divario anche in altre regioni normalmente più virtuose, come la Lombardia, dove la differenza è del 13%, ma c'è stata una crescita del 4,2% nel periodo 2007-2009. La più virtuosa è l'Umbria, qua parliamo naturalmente di evasione presunta, perché insomma, no? Magari c'è anche qualche patrimonio alle spalle, insomma. Più una differenza del 12,5%. Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, torna da noi. Buonasera. Buonasera. Ciao. Allora, questo ci dà in realtà lo spunto per riflettere un po' più seriamente su quello. Abbiamo parlato tanto di riforme all'inizio. A me sembra che il cantiere più importante a tutti gli effetti sia quello fiscale, quello nel quale si gioca anche il rapporto di fiducia tra i cittadini e lo Stato, no? Sì, sì, sì, certamente. Questo è uno dei cantieri importanti, non solo perché c'è un rapporto tra fisco e contribuenti che va ricostruito, ma anche perché, insomma, visto che parliamo di evasione fiscale, è anche giusto ricordarlo, perché siamo un paese che sconta invece una pressione fiscale altissima, elevatissima, tra le più alte d'Europa, senz'altro. Diciamo, il nostro rapporto tassazione PIL è in cima alle statistiche europee, e se andiamo a guardare il prelievo effettivo sia sulle persone sia soprattutto sulle imprese, ci rendiamo conto che lì stiamo ancora a livelli più elevati, lì qui addirittura siamo tra i primi paesi al mondo. Quindi diciamo il due temi, quello della pressione fiscale e quello dell'evasione fiscale molto elevata nel nostro paese, si legano, sono legati, non solo perché una delle giustificazioni che più spesso gli evasori utilizzano per, insomma, spiegare i loro comportamenti è le tasse sono troppo alte, che è una brutta giustificazione perché tutti lo potremmo dire, ovviamente, ma soprattutto perché direi che fare un serio piano, seri interventi sul fronte dell'evasione fiscale dovrebbe avere come obiettivo principale quello di ridurre poi la pressione fiscale, appunto troppo eccessiva nel nostro paese. Quindi due temi senz'altro molto collegati tra di loro. Vorrei dire ad Andrea che al 349-238-6666 ci scrive che non è che continuiamo a menarla con l'evasione quando il problema vero è come lo Stato spreca i soldi. Sappiamo benissimo che lo Stato spreca i soldi, però c'è anche un tema evidentemente di evasione fiscale. Poi che, no, che sia dal taglio della spesa eminentemente che vanno ricavate risorse anche per tagliare le tasse, questo mi sembra assolutamente evidente. Sì, sì, sì, tra l'altro direi quello dei soldi che lo Stato spende male è un altro dei motivi che gli evasori utilizzano per giustificare il proprio comportamento, no? Io le tasse non le pago, certo di pagarne meno, perché tanto poi lo Stato spreca i miei soldi. Ovviamente questa cosa è vera, ma queste giustificazioni ovviamente non tengono, insomma, no? Senti una cosa, io nel commento che firmi sul Sole 24 Ore di oggi ho letto forse tra le righe o forse nemmeno troppo un po' di scetticismo sulle mosse dell'esecutivo dal lato fiscale, una certa timidezza sulla delega, forse in particolare sulla delega fiscale. Sbaglio? Ti ho letto male? No, hai letto bene. Beh, in realtà diciamo ci sono tre pilastri che in questo momento, intorno ai quali in questo momento ruota il dibattito sull'evasione, no? Il primo è questo piano, questa relazione che il governo si appresta a presentare al Parlamento. Doveva farlo in realtà in questi giorni, immagino che a questo punto slitteremo all'inizio di settembre, ed è un piano importante da un lato perché dovrà garantire di recuperare nell'immediato 2 miliardi di euro che servono per coprire alcune spese che sono già state definite, di maggiori incassi nella lotta all'evasione, però è anche un piano che in qualche modo pone le basi per una azione più strutturale di intervento sull'evasione. Dall'altro lato c'è la delega fiscale che, pur non intervenendo in modo specifico sull'evasione, però contiene, dalle semplificazioni a un sistema premiale per i contribuenti onesti, contiene molti elementi che vanno nell'ottica di aumentare la tax compliance, come si chiama, l'adempimento spontaneo dei contribuenti, e quindi ridurre l'evasione fiscale. Terzo elemento, c'è questa direttiva annuale sui controlli dell'Agenzia delle Entrate che è stata diramata nelle settimane scorse, anzi la settimana scorsa, che pure insomma dice come il fisco effettuerà i controlli nell'anno in corso 2014, anche qui con l'obiettivo di aumentare la compliance e di aumentare quindi sia diciamo il gettito spontaneo, chi paga spontaneamente, sia l'attività dei controlli. No, la mia sensazione, ed è un po' quello che poi scrivo oggi, è che è come se venisse fuori un po' l'idea che, leggendo questi documenti, che possa esistere un'evasione fiscale buona e un'evasione fiscale cattiva. Cioè, allora, questi discorsi, l'evasione dei grandi, l'evasione dei piccoli, l'evasione per necessità, l'evasione... In realtà quello che io voglio dire è che il nostro è un sistema molto complesso. L'evasione fiscale è un fenomeno molto diffuso, è un fenomeno che riguarda i contribuenti grandi, le grandi imprese, le multinazionali, eccetera, ma è un fenomeno anche che riguarda, diciamo, la piccola evasione, i piccoli, gli scontrini fiscali, fiscali non emessi, eccetera. Allora, secondo me è importante non distogliere l'attenzione, appunto, da un fenomeno che è molto complesso, e noi siamo un paese che ha 5 o 6 milioni di partite IVA, quindi non dobbiamo, come dire, fornire ulteriori alibi, no, a chi non paga le tasse per pagarne di meno ancora. E poi, detto ciò, naturalmente ci sono gli ascoltatori che ci scrivono: il problema è che gli italiani stanno erodendo tutti i risparmi degli ultimi 30 anni dei loro genitori. C'è ancora chi ci scrive che siamo campioni del mondo per imposizione fiscale. Questo è verissimo. Questo è assolutamente vero, è indubitabile. Detto ciò, questo non può giustificare comportamenti illeciti, direi, insomma. No, assolutamente. Soprattutto non può giustificare situazioni come quelle che emergono dai dati che abbiamo presentato oggi. Perché se esistono regioni in cui, diciamo, la differenza tra il reddito, si badi bene, lordo, non il reddito netto, cioè quindi quello prima delle tasse, e i consumi, diciamo, sfiora il 50%, e se questa cosa avviene, diciamo, in modo costante negli ultimi 10 anni, perché noi partiamo la nostra osservazione dal 2003, allora qui anche le giustificazioni dell'utilizzo i risparmi dei genitori, mi indebito, tengono poco, perché il divario è troppo grande. Evidentemente, quando è un 40%, esatto. evidentemente è troppo. Tra l'altro, da domani, io ve lo ricordo, c'è una guida in 4 appuntamenti per approfondire gli interventi del governo, e tra l'altro il primo appuntamento riguarda le nuove agevolazioni per le imprese che investono in impianti, quindi, insomma, in parte anche questa evidentemente è una questione fiscale. Da domani, appunto, 4 appuntamenti su Sole 24 Ore. Ancora ci scrivete: attraverso il fisco lo Stato è in assoluto il principale proprietario di ogni azienda in Italia, si prende la prima settimana di fatturato ogni mese. Anche su questo, anche questo è vero, forse oggettivamente anche di più della prima. Comunque ci avete dato un buon suggerimento, perché dite, insomma, parlate di evasione, la menate con l'evasione, il problema sono i tagli di spesa. Nei prossimi giorni, in questa settimana, insomma, che abbiamo anche un po' più di tempo, ci si torna sicuramente su questa spending review, che dovrebbe finalmente partire a settembre. Quante volte abbiamo detto adesso parte la spending review, speriamo che a settembre parta davvero. Grazie Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, Mauro Del Corno in redazione, Valeria Bernardi in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 17. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24. La passione si sente.